ecco l'inno italiano. No, stanno rifacendo l'inno pontificio. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Sentiamo tutti nelle vene il sangue italiano. Ecco, al Papa, per ordine dei medici, è stata risparmiata. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ascoltiamo il messaggio natalizio tutti del Papa. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Il vizio per la qualità non ha prezzo. Costa solo 39.500 lire. Nasce Dio. La potenza umana resta sbigottita. Il grande potente Oz sa perché siete qui. Il Signore dei Cieli si spoglia. Per un corpo da favola. Una preziosa collezione di capi intimi che si raccomanda per l'eleganza della linea, la cura dei particolari, la grande vestibilità, la valorizzazione delle forme. Arte intima. Un universo tutto da scoprire. Sostiene tutto con la parola della sua potenza. È lui che ha creato il cosmo. In lui il cosmo esiste. E da lui viene mantenuto nell'esistenza. Sì, l'incarnazione del Figlio di Dio costituisce come il coronamento della creazione. Per questo un altro canto natalizio ricorda che il giorno di Natale tutto il creato gioisce. Oh! Oh! Condividiamo insieme, fratelli e sorelle del mondo intero, questo cantico di gioia, mentre dappertutto risuonano in lingue diverse le tradizionali melodie natalizie. E a quelli che ricevono a mezzo della radio e della televisione la sua benedizione, l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente, perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli, Pedro e Paolo. Un momento solennissimo. E corumbo dell'arte, autorità della mia. Ipsi intercedant pro noi, già da domino. Amen. Ecco, noi accorgiamo. Grazie a tutti. grazie e consolazione Santi Spirito, per finale in perseveranza in voglio per viva Domi, omnipotente di misericordia Domino. Amen. Ed ecco la benedizione Urbi e Torbi. La benedizione degli omnipotenti, Patrice Spirito e Spirito Santo, descendo a tu per voi, per sempre. Amen. Con la benedizione Urbi e Torbi e gli auguri in circa 55 lingue le ho contate, si conclude questo Natale 1996 in unione con il Santo Padre e in mondovisione con milioni e milioni di fratelli sparsi in tutto il mondo.